Alessandro Turci e Federica Miglio, registi del documentario Don't Flash Your Freedom. Buonasera. Benvenuti. Ci siete? Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Ok. Ciao. Il vostro documentario, ho avuto modo di vederlo quest'estate al Clorofilla Film Festival. Intanto complimenti, è una bella storia. Raccontiamo un po' a chi ci ascolta di cosa si tratta. Innanzitutto grazie che ti è piaciuto il documentario. Si tratta di un documentario dedicato a un tema specifico di bioarchitettura, però diciamo molto molto radicale, per cui che va incontro anche a un determinato stile di vita, una scelta di vita particolare, insomma una filosofia, si abbraccia la filosofia di vita abbracciando questo modo di costruire, per cui noi abbiamo cercato di documentare più che altro la filosofia e tutta l'energia che ruota attorno a questo mondo. E questa filosofia significa vivere liberi e sostenibili, cioè off-grid, come dicono gli inglesi, senza legati dalle infrastrutture energetiche, soprattutto dell'approvvigionamento energetico, della luce, ma anche dell'acquedotto, per uno stile di vita appunto in autonomia. Totale autonomia, sì. Autonomia, autodeterminazione, autotutto, insomma. Autotutto. Allora, esiste una figura di riferimento, un architetto americano per tutto questo movimento, giusto? Sì, è stato inventato, il concept è stato inventato da un architetto americano che si chiama Michael Reynolds 40 anni fa, diciamo è stato via via anche messo a punto negli anni, per una decina d'anni è stato radiato dall'ordine degli architetti, per cui ha potuto sperimentare un po' poco, poi è riuscito a vincere la sua causa, a ottenere un terreno in New Mexico, nello specifico a Taos, che è un altopiano di 2500 metri dove le condizioni atmosferiche sono e geologiche sono piuttosto dure, per cui un ottimo terreno su cui sperimentare, un'ottima condizione climatica in cui sperimentare, e da lì hanno portato avanti, hanno messo a punto tutta una serie di modelli che poi hanno portato in giro per il mondo per motivi differenti. Diciamo, nel primo cosiddetto primo mondo serve a diffondere una cultura, come si dice, sostenibilità, ma anche di passare all'essenziale, il più possibile all'essenziale, decrescita, non mi veniva la parola, decrescita, ok, per cui aiuta ad andare sempre più verso l'essenziale, non sprecare, a non inquinare, a non influire negativamente sul pianeta, che più ne ha più ne metta. Invece nel mondo in via di sviluppo, nei posti dove ci sono stati dei disagi climatici particolari, lì vengono costruite per dare lo stretto necessario a persone che invece non hanno accesso al cibo, non hanno accesso all'acqua, non hanno accesso a infrastrutture sanitarie minime per avere una serenità minima a disposizione. Sì. A partire dal New Mexico è un'esperienza molto interessante, perché sono comunità abbastanza numerose e che in condizioni di vita, come dicevi prima, piuttosto estreme, riescono ad approvvigionare sia luce che acqua. Luce e acqua fondamentalmente, questo è già super sperimentato, ma anche approvvigionamento di cibo, in molti casi riescono, esatto, anche a autosufficienza alimentare. Sì, autosufficienza alimentare, perché queste costruzioni, va bene, oltre a essere costruite con materiali di recupero, come forse già qualcosa, diciamo che si chiamano Earthship, così magari entra nella terminologia comune questo termine, che vuol dire letteralmente nave di terra, che come le navi appunto sono concepite per essere completamente autonome e autosufficienti, quindi oltre a essere fatte con materiali di recupero, principalmente con materiali di recupero, cercano di essere non solo autonomi dal punto di vista energetico, creandosi la propria energia, alimentando la casa in tutto e per tutto, ma anche di non influire sul pianeta attraverso impianti fognari. Ad esempio, l'acqua che viene raccolta può essere purificata, bevuta e utilizzata più volte, tra cui l'ultima delle sue utilizzazioni è quella di andare a fertilizzare una serra. Sì, quella della serra però è, chiaramente parliamo di piante non commestibili. Scusate, ma questi termini li abbiamo imparati là, in inglese non riusciamo a tradurli facilmente. Comunque, chiaramente la fototecnica va ad alimentare delle piante non commestibili, mentre nel secondo passaggio dell'acqua, che è ancora un'acqua grigia, viene utilizzata all'interno di serre che possono approvvigionare anche di cibo, per cui diventa diventa un discorso proprio a 360 gradi, sì. L'autonomia totale a 360 gradi. Sì, perché come dicevi tu ci sono le serre e ci sono anche allevamenti di animali per uova e formaggi. Esatto, esatto. Poi sai, dipende da posto a posto. In Olanda siamo andati a visitare questi stanno costruendo proprio un villaggio intero con 33 unità abitative e vogliono far pascolare le pecore sul tetto. Anche in Germania stanno organizzando il tetto in modo che sia... Sì, ci sono i sistemi di acquaponiche, come dicevi tu adesso, che quindi ti permettono di avere pesce, insomma, proteine animali a disposizione per chi vuole. E sì, insomma, è un sistema veramente radicale, di autonomia radicale. Sì, sì. Infatti il titolo del documentario, che è Don't Flash Your Freedom, è un po' irriverente, diciamo, perché letteralmente proprio tradotto è non buttare la tua libertà nel cesso, quindi insomma è un po' forte. Quando lo diciamo ad amici di lingua inglese sorridono perché è un po' forte come immagine, ma in realtà un po' restituisce tutto il mondo che gira attorno a questa filosofia, lo stile di questo mondo che infatti vuole essere un po' provocatorio, ma l'idea era partita da una cosa molto molto semplice, cioè pratica, che è una riflessione sul fatto che noi tutte le volte che andiamo in bagno, in effetti, azionando lo scarico, buttiamo via letteralmente 6 litri di acqua potabile ogni volta. Sì. In un mondo dove credo che 2/3 del pianeta non abbia accesso all'acqua potabile, forse 1/3 del pianeta nemmeno all'acqua, e le risorse tra l'altro insomma sono destinate a esaurirsi, per cui esistono le energie rinnovabili, perché non utilizzare quelle, e abbiamo usato questo titolo in maniera così, un po' simbolica. Allora, due informazioni. La prima è se sono previste proiezioni pubbliche del vostro lavoro, oppure è prevista un'uscita in sala o una distribuzione in home video o passaggi televisivi, e poi se ci sono vostri spazi di riferimento sul web. Allora, in questo momento sì, ci ha contattato Legambiente per una serie di proiezioni, ma non c'è ancora un calendario. Noi stiamo ultimando alcuni accordi per metterlo online, e a breve sul nostro sito, adesso ti daremo il riferimento, capiremo come e dove. Invece attualmente nel palinsesto di Sky Arte on demand, ma probabilmente lo proiettano anche nella scansione mensile, lo si può vedere in questo momento chi ha il pacchetto Sky, naturalmente. Poi il paradosso che sì. No, beh, diciamo che abbiamo almeno coperto, è un'autoproduzione questa, in qualche modo abbiamo cercato di coprire almeno le spese, perché sì, abbiamo dovuto andare in Filippine, in Malawi, 2 volte a Taos, quindi un po' di spese le abbiamo avute, non tante. È proprio un piccolo documentario prodotto con poco, e devo dire che sta comunque riscuotendo un certo interesse nonostante il suo essere autoprodotto. È una buona cosa. Possibilità d'Italia invece per... Invece, se vuoi dire tu, Off-Grid Italia è un'associazione che abbiamo fondato dopo aver scoperto il tema e preso contatto con le persone in Italia interessate a questa cosa. Abbiamo fondato una piccola associazione, per ora piccola perché è recentissima, si chiama Off-Grid Italia, ha un sito www.offgriditalia.org e lì si possono trovare delle informazioni e gli aggiornamenti anche su progetti futuri, perché non vogliamo solo divulgare, vogliamo anche cercare di costruire. Esatto. Anche perché l'Italia è uno dei pochi paesi dove non si è ancora costruito con questa tecnica, per cui vale la pena cercare di farlo. Siamo l'anello mancante. Noi e la Grecia per ora. In Europa hanno costruito dappertutto e nel resto del mondo anche. Allora, speriamo di sentirci presto per delle novità. Nel frattempo vi ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie a te. Grazie mille, grazie a voi. Ciao, a presto. Alessandro Turci e Federica Miglio, registi del documentario Don't Flash Your Freedom.